In primo piano. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli. Come potete immaginare, la rassegna stampa di oggi è dominata dalle prime pagine, tutte dedicate al messaggio di ieri del Colle. Quasi tutti i giornali pubblicano integralmente il testo di Giorgio Napolitano e quasi tutti i giornali hanno un titolo a tutta pagina. Quindi per il Corriere della Sera questo significa: caso Berlusconi, le condizioni di Napolitano, poi un piccolo virgolettato, no alla crisi, prendere atto della sentenza. E poi però il Corriere della Sera sottolinea: c'è in questo documento un riconoscimento al ruolo politico del Cavaliere. Ci sono 9 pagine di retroscena, approfondimenti solo sul Corriere della Sera. Vi leggo solo però una parte dell'editoriale in prima pagina di Antonio Polito, che si intitola Una via ragionevole. Poi, appunto, per chi si appassiona a questo tema, ci sono pagine e pagine di approfondimenti su tutti i giornali. Vi leggo quindi le prime righe, le ultime dell'editoriale di Polito. Prendendo carta e penna, nel modo pubblico con cui ha finora ha sempre motivato ogni sua decisione, il capo dello Stato ha tratteggiato ieri una linea di divisione tra i poteri. Se i protagonisti di questa torrida estate politica, in primis Berlusconi, uniranno tutti i trattini come in quel gioco della settimana enigmistica, potranno trovare l'uscita dal labirinto, evitando all'Italia di ricadere nell'instabilità e nell'incertezza e di pagarne il salatissimo prezzo. Vi leggo le ultime righe. La necessità di una fase di distensione dopo 20 anni di lotta politica senza quartiere resta la stella polare di Napolitano. Deve esserlo anche di Berlusconi nell'ora più difficile della sua vicenda e del partito che esprime il capo del governo. Dalla prima pagina del Corriere della Sera però vi segnalo un intervento di Beppe Severgnini sulla questione del femminicidio. Ieri abbiamo letto alcuni interventi di donne, oggi mi sembra giusto, anche perché l'intervento è, secondo me, molto, molto bello, leggere parte di questo di Severgnini. Si intitola Noi uomini e i demoni che non riconosciamo. Violenza sulle donne, rompiamo il silenzio, scrive Severgnini. Noi maschi dovremmo occuparci di più del femminicidio, parlarne, scriverne, domandare, provare a capire, anche a costo di dire e scrivere leggerezze. È invece un dramma confinato in un universo femminile. Ne parlano le donne, ne scrivono le donne, le fotografie sono quasi sempre delle vittime e non dei carnefici. E continua a pagina 19, ma davvero vi consiglio di leggerlo perché il punto di vista maschile è assolutamente interessante, anche perché la legge che verrà probabilmente approvata dopo l'estate è sicuramente importante, ma a questo punto, visto che ogni giorno ci sono notizie di questo genere, non so, mi viene da dire che quasi bisognerebbe insegnare nelle scuole agli uomini a controllare la rabbia, a controllare questi eccessi di rabbia e di violenza, perché la verità è che, con rarissime eccezioni, se un uomo vuole sopraffare fisicamente una donna lo può fare, anche se non è armato. Vi leggo quindi le ultime righe dell'editoriale di Severgnini. È in questa normalità che noi maschi dobbiamo scavare. 762 donne uccise dal 2009, una ogni 3 giorni. Non chiamiamoli omicidi passionali, la passione non c'entra. Non chiamiamoli raptus, sono atti spesso prevedibili e talvolta preparati. Sono azioni covate tra ossessione, orgoglio ed egoismo che sfociano in un epilogo orrendamente semplice. Aperte le virgolette, qui c'è una citazione di Dostoevskij. Ogni delinquente va soggetto nel momento del delitto a una specie di prostrazione della volontà e della ragione, alle quali subentra invece una puerile, fenomenale leggerezza. Chiuse le virgolette. Vi sembra eccessivo ricorrere a Fyodor Dostoevskij per cercare di capire un avvocato di Verona che in una notte d'estate uccide e si distrugge? Non lo è. I demoni purtroppo sono tra noi e dentro di noi. Ma dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche un articolo altrettanto interessante di Danilo Taino sui due Marò in India. Vita in punta di piedi per i due Marò in India. Oggi, ieri infatti, è arrivato a New Delhi l'inviato italiano De Mistura. Il processo è fissato per autunno e Taino ci racconta la vita dei due Marò, la cui sorte appunto è sospesa. Il Corriere della Sera riassume la vicenda. Il 15 febbraio del 2012 2 pescatori indiani vengono uccisi al largo delle coste del Kerala. Dell'omicidio sono accusati i due Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, in servizio sulla petroliera Enrica Alexie. Poi sono rientrati in Italia, ricorderete, poi sono tornati a Delhi. Nel gennaio di quest'anno il processo è stato spostato e i Marò poi sono tornati per 4 settimane a febbraio in Italia, ma poi sono ancora ritornati in India. I fucilieri italiani si muovono con cautela perché stampe e politici locali sono pronti alla polemica, ci racconta Danilo Taino, è una pagina intera, la pagina 12 del Corriere della Sera. Ma veniamo alla prima pagina della Repubblica. Anche in questo caso in prima il titolo è a tutta pagina, il Colle due punti, Berlusconi accetti la condanna. Anche in questo caso ci sono 9 pagine di servizi interni, anche in questo caso l'intervento di Napolitano è pubblicato integralmente, la pagina è la 4. Però vi segnalo dalla prima pagina della Repubblica, visto che abbiamo parlato di donne, di come viene affrontata le varie questioni femminili in questo momento, soprattutto quella della violenza, ma in generale il ruolo delle donne nella società, vi segnalo un intervento di Paul Krugman, che è un economista e pubblica quasi tutti i suoi interventi sul New York Times in America e su Repubblica in Italia. Il titolo è "Che scandalo, una donna vuole guidare la Fed". Una donna è capace di dirigere bene la Federal Reserve, la banca centrale americana, sapete, non ce lo si dovrebbe nemmeno chiedere. Oltretutto, Janet Yellen, vicepresidente del Consiglio dei Governatori della Fed, non è solo all'altezza del compito. In base a qualsiasi realistico criterio di giudizio, è la persona più qualificata in America per subentrare a Ben Bernanke quando scadrà il suo mandato di presidente. Ciò nonostante, contro Janet Yellen non c'è in corso soltanto una campagna sessista, ma ben due. La prima è una campagna strisciante fatta di insinuazioni, nella quale l'elemento sessista è implicito. La seconda implica un'aperta misoginia. Entrambe riescono per di più ad abbinare al sessismo un'analisi economica davvero pessima. L'articolo continua a pagina 30. Dove subito dopo a pagina 31 nelle pagine appunto dei commenti di Repubblica c'è un intervento di Chiara Saraceno, diritti da testimoniare. Qui la sociologa unisce le due questioni, quelle del femminicidio e quello dell'omofobia, anche perché tra l'altro su queste due questioni ci sono le due leggi che verranno probabilmente approvate dopo l'estate, e vi leggo la prima parte. Non basta il decreto legge sul femminicidio a fermare lo stillicidio ormai quotidiano di uccisioni di donne, spesso da parte di mariti, fidanzati, amanti, come non basteranno le norme contro l'omofobia, se e quando verranno mai approvate, a difendere le persone omosessuali dalla fatica di una vita quotidiana sempre ostaggio dell'intolleranza e del disprezzo di persone che non solo credono di avere il monopolio della normalità, ma se ne fanno scudo per dar corso ai propri impulsi peggiori. Chi uccide va punito, chi minaccia di uccidere o comunque tormenta va fermato e, se del caso, punito. E vi leggo un'altra parte, perché dove si parla soprattutto di prevenzione, perché questa è un po' una delle parti delle due leggi che ci si augura verrà anche magari corretta prima di un'approvazione definitiva. Le leggi hanno anche una funzione comunicativa, fanno parte del discorso pubblico su come una società considera se stessa e le proprie relazioni. Le resistenze del Parlamento italiano a varare norme contro l'omofobia, da questo punto di vista, non sono un bel segnale della maturità del discorso pubblico su questi temi. Leggi come queste, che mirano a contrastare comportamenti distruttivi, servono ancora di più se mettono in campo risorse per la protezione delle vittime e per lo sviluppo di iniziative di prevenzione. La parte più vaga, ahimè, del decreto sul femminicidio è assente dalla proposta di legge contro l'omofobia. Sempre sul tema delle donne, questa volta dalle pagine di Milano della Repubblica, un altro dato che ci fa capire come appunto la questione, chiamiamola questione femminile, si può affrontare da tantissimi punti. Quello che segnala la Repubblica è Milano sotto la media nazionale del 5% per toponomastica dedicata alle donne. Il titolo dell'articolo è "La memoria della città oscura le donne". Solo il 3% della toponomastica, cioè le vie, le piazze, i giardini, sono intitolate a donne. Il 60% dei luoghi ricorda uomini, il 40% dei riferimenti storici o geografici lo stesso, su 142 targhe femminili un terzo sono religiose. E ci ricorda poi Matteo Pucciarelli in questo articolo che in realtà ultimamente alcune donne hanno invertito questa tendenza. Gaia Aulenti, Camilla Cederna, Anna Politkovskaja, ma sulle altre iscrizioni si dovranno aspettare 10 anni dopo la morte. Ma visto che ancora importantissimi in questi giorni sono i temi economici, passiamo subito alla prima pagina del Sole 24 Ore. Il titolo, in questo caso la prima pagina è un po' divisa in due, il titolo principale è economico: riparte l'Europa, spread a 241, quindi ancora più basso di ieri. Lo ricordiamo, lo spread è il differenziale tra i nostri BTP decennali e i Bund tedeschi in punti base. Quindi l'ultimo minimo era stato 237 l'8 luglio, però ieri molto vicino questo 241. L'editoriale di Marco Nado, il bicchiere mezzo pieno, vi leggo la prima parte. I mercati hanno deciso di vedere il bicchiere mezzo pieno nei segnali ancora contraddittori sulla timida ripresa in atto nell'Eurozona. In effetti le banche centrali sono molto più prudenti. Nel corso della consueta conferenza stampa Mario Draghi si è ben guardato dall'assumere toni apertamente ottimisti e ha usato parole che non potevano essere più sfumate. Stiamo forse cominciando a vedere i primi segni che il miglioramento del clima di fiducia si trasmette all'attività economica. È una ripresa ancora anemica anche nei paesi dell'area centrale, ma è appunto un, scrive Marco Nado, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno. C'è naturalmente anche la notizia della nota del Quirinale, il titolo scelto è un virgolettato, fatale una crisi di governo, le sentenze si applicano, il commento è di Stefano Folli, il notista politico del Sole 24 Ore, vi leggo la prima parte, poi continuo a pagina 9. Fin dall'inizio era chiaro che la grazia presidenziale non ci sarebbe stata. Nell'idea di certi personaggi vicino a Berlusconi doveva essere una specie di sconfessione della magistratura da parte del Quirinale, ma il solo chiederlo era del tutto insensato. E infatti nessuno ha avuto questo coraggio al di là dei furori mediatici. Le sentenze divenute definitive si applicano, dice Giorgio Napolitano. Magari si dissente da quello che la Cassazione ha deciso e anche questo è legittimo e tuttavia non si butta all'aria al governo, non si fa pagare al paese un prezzo inaccettabile, si accetta il verdetto con rispetto e senso delle istituzioni. Il Presidente della Repubblica è molto chiaro nella sua nota, la più attesa, la più politica, quella da cui può dipendere il futuro di una legislatura cominciata da pochi mesi. Ma dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche innanzitutto che manca un giorno allo speciale di Ferragosto, che sarà ovviamente domani, dove l'approfondimento sarà sui controlli fiscali, sul redditometro e sui consigli per difendersi da verifiche troppo intrusive. E poi continuano i due speciali, il tuo portafoglio e la tua casa. Il tuo portafoglio oggi è dedicato ai conti deposito, con questi rendimenti che battono l'inflazione. È l'intera pagina 4 curata da Nicola Borzi, un collega di Plus 24 di Finanza. I rendimenti battono l'inflazione, c'è anche la garanzia del fondo di tutela. Mentre per quanto riguarda l'altro speciale, che è quello dedicato alla casa, in questo caso è a pagina 14, e è un approfondimento sul fisco, ma sul fisco in particolare per quegli immobili acquistati oltre confine. Quindi per la casa all'estero, ci spiega Valentino Tamburro, c'è un'imposta con due aliquote. La parola chiave è SE ed è composto dai 28 stati dell'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia, e è appunto questo sistema di tassazione per le case. Doppia tassazione in un certo senso, ma che cerca di essere il più equa possibile per chi compra, per chi ha una cittadinanza di un paese ma compra casa in un altro. La copertina del dorso di Finanza e Mercati è dedicata all'affaire Ligresti, che ieri era su tutte le prime pagine dei giornali, perché sapete lunedì sono stati eseguiti sequestri dalla Guardia di Finanza per beni per 250 milioni di euro circa riconducibili alla famiglia Ligresti. Oggi la questione è sparita da tutti i giornali, tranne che dal Sole 24 Ore. Ditemi se questo ha un senso, un'inchiesta così importante per una vicenda senza precedenti, quella dell'arresto di un'intera famiglia. Comunque, la copertina di Finanza e Mercati titola a praticamente tutta pagina Unipol pronta a impugnare il sequestro. Infatti ieri appunto questi sequestri hanno coinvolto molti beni della Galassia Ligresti, che però nel frattempo sono anche passati ad altre aziende. Quindi, scrive Laura Galvani, Unipol si prepara ad impugnare il decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice Silvia Salvadori su richiesta dei PM. La compagnia assicurativa, che ieri in borsa ha pagato l'intervento della procura sui beni di Fondiaria Sai, aveva già annunciato alla vigilia di voler tutelare i propri interessi. Intanto, segnala sempre Laura Galvani, le mosse dei Ligresti, i legali della famiglia preparano il provvedimento per chiedere la scarcerazione degli assistiti dopo la bocciatura del tribunale del riesame di Torino, che sapete ha bocciato il trasferimento dell'inchiesta da Torino a Milano. C'è un altro approfondimento di Marco Ferrando da Torino, l'attenzione dei PM torna sull'ingegnere. A Torino in procura si studia la possibilità però anche di un accertamento sulle condizioni di salute. Infatti il padre, l'ingegner Salvatore Ligresti appunto, è agli arresti domiciliari, due delle figlie sono invece in carcere, Giulia Vercelli e Ionella a Torino, mentre il terzo figlio Paolo è latitante in Svizzera. E c'è un ulteriore approfondimento di Marco Mussanè, il corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore, Groupama, ex socio di Ligresti, al bivio sulla quota Mediobanca. Dalla prima pagina invece dell'Avvenire, ho scelto di segnalarvelo da, appunto dall'Avvenire, ma la fotonotizia, la notizia e poi gli approfondimenti li trovate su tutti i quotidiani, la visita delle nazionali di Italia e Argentina al Papa di ieri. Oggi, questa sera, ci sarà l'amichevole e il titolo dell'Avvenire è Francesco, sportivi prima di tutto uomini. L'editoriale è di Umberto Folena, con il cuore libero del dilettante. Vi leggo l'ultima parte: divertirsi e far divertire, dunque, questa è la missione originale. Se te la dimentichi, perdi te stesso e togli sapore e senso al gioco. Solo se mantieni lo spirito del dilettante, colui che agisce per diletto, non per interesse, produci bellezza, gratuità e cameratismo. Lo sport, a partire dal calcio, se restituito a se stesso, è l'immagine di un mondo fondato su bellezza, gratuità e cameratismo, in cui, parole testuali di Bergoglio, non c'è posto per l'individualismo. Il business, a certi livelli, è necessario, ma non deve far perdere al calcio il suo carattere sportivo. Potremmo dire, il business è un semplice mezzo, uno strumento, non il fine. Il business è in funzione del calcio inteso come divertimento e bellezza, non viceversa. Una visione rivoluzionaria, sì, ma presentata con il sorriso, il consueto tono di voce affabile, senza alcuna aggressività, senza lanciare accuse, tutto il contrario di quanto avrebbe fatto il solerte inquisitore, ma molto, molto più intelligente ed efficace. E sempre su questa questione c'è poi all'interno degli approfondimenti, anche perché sapete, Francesco, pagine 4 e 5 sono gli approfondimenti. Papa Francesco ha addirittura avuto un mini breve colloquio con Mario Balotelli, e molto scherzoso, dicendogli: insomma, siamo tutti e due degli intemperanti, abbiamo un carattere così, veniamo entrambi criticati, non reagire alle critiche, soprattutto quelle che vengono da un becero razzismo. L'editoriale invece sulla nota di Napoletano e del direttore dell'Avvenire, Marco Tarquini, il titolo è Ineccepibile. Poi vi segnalo, come ho fatto ieri, la rubrica Tracce, che c'è in prima pagina sull'Avvenire. Oggi è dedicato alle biblioteche, che forse qualcuno pensava sparissero insieme ai libri di carta. I libri di carta non sono spariti, io credo che non spariranno mai, lo ha imparato anche Jeff Bezos di Amazon, che ne vende tantissimi e ne vende molti più di quanto venda degli ebooks. Scrive Anna Foa: nonostante il dominio del digitale, il libro esiste ancora, e con i libri le biblioteche, piccole o grandi, pubbliche o private. Ci sono biblioteche antiche, gioia degli occhi e del cuore, in cui i volumi disegnano arabeschi sullo sfondo, come la Biblioteca Angelica Roma, con la sua alta volta foderata di antichi volumi. E conclude Anna Foa: sì, le biblioteche esistono ancora e creano forti emozioni negli animi. Sarà ancora e sempre così? È giusto, appunto, chiederselo, ma io, per esempio, appunto, credo che sì, esisteranno insieme ai libri di carta, affiancati naturalmente dai libri digitali. La prima pagina della Gazzetta dello Sport, doveroso citarla perché giustamente apre con la visita di Papa Francesco, con questa bella foto in cui il Papa è al centro vestito di bianco tra tutti i calciatori, eleganti nei loro abiti neri, credo che fossero comunque blu molto scuri. Siate uomini prima che campioni, emozioni in Vaticano, in campo ci devono essere bellezza, gratuità e cameratismo. E poi, appunto, questa udienza privata, chiamata così, anche se è durata ovviamente poco, per Balotelli, che tra l'altro stasera non ci sarà, non ci sarà neanche Messi, l'altro grande campione, perché hanno entrambi dei problemi fisici. Passiamo alla prima pagina della Stampa, anche in questo caso il titolo è sulla nota del Quirinale: la condanna va accettata, un virgolettato. Anche in questo caso l'intervento è pubblicato interamente, a pagina 5, l'intervento di Napolitano, ma dalla prima pagina della Stampa vi segnalo un editoriale un po' controcorrente, se vogliamo, ma forse necessario, di Mario Tozzi sulla questione delle due alpiniste morte ieri sul Monte Bianco. La natura non può essere un reality, si intitola. Duole dirlo, ma solo in pochissimi casi le vittime della montagna o del mare sono davvero tali. Per la maggior parte si tratta di vittime di se stessi, di un malinteso senso del limite e di una visione della natura molto lontana da quello che è in realtà. L'editoriale continua a pagina 29, ve ne leggo l'ultima parte. Mare e montagna non sono più il luogo delle nostre vacanze, di un ozium indispensabile, di un tentativo di riconciliazione con il mondo naturale dimenticato per gli altri 11 mesi dell'anno. Sono diventati lo scenario dei nostri maldestri tentativi di divertirci a ogni costo, a prescindere dalla preziosa peculiarità locale. Luoghi raccolti e tranquilli diventano, loro malgrado, palestre di rumorose attività surreali che non cercano una relazione con il territorio, ma una globalizzazione incolta che di fatto li impoverisce assimilandoli tutti. Sembra quasi un maldestro tentativo di vivere come in un reality dove tutto è possibile anche durante l'estate. Solo che qui non si fa televisione, anzi si paga un tragico tributo di vittime che non sono solo vittime della loro stessa imperizia e dell'ignoranza, ma soprattutto di un'incultura del mondo naturale che a raccontarla per iscritto si fa difetto. E dalla prima pagina del Messaggero, anche in questo caso l'apertura è sulla nota di Napolitano, il titolo Fatale una crisi su Berlusconi, un virgolettato della nota del Quirinale, e anche in questo caso l'intervento è pubblicato integralmente, è richiamato in prima pagina e poi continua a pagina 18, anche in questo caso fotonotizia su Papa Francesco che incontra le nazionali d'Italia e Argentina e la foto è quella del Papa che stringe con entrambe le mani, stringe la mano di Mario Balotelli. E Papa Francesco confessò Balotelli. Ma dalla prima pagina del Messaggero è una notizia che trovate anche su altri giornali, il Messaggero però è l'unico che la mette in copertina, la lezione di Angela Merkel ieri in una scuola di Berlino. Sapete che Angela Merkel è cresciuta nell'ex DDR, nella Germania comunista, e ha raccontato, ha spiegato in un certo senso il muro, ha cercato di spiegare la sua esperienza di quegli anni. La cancelliera tedesca Angela Merkel torna a scuola per un giorno nei panni di professoressa. Il muro di Berlino. Buongiorno, il mio nome è Angela e oggi terrò io la lezione di storia. Con queste parole, scrivendo il suo nome alla lavagna, che la cancelliera si è presentata ieri agli studenti del liceo berlinese Schliemann. In occasione del 52esimo anniversario della costruzione del muro, la Merkel è salita in cattedra per raccontare ai ragazzi i suoi ricordi personali, legati all'evento simbolo della guerra fredda, della divisione tedesca e della vita di una giovane ragazza cresciuta sotto il regime comunista della DDR. Walter Raue, che scrive per il Messaggero, ma è tedesco, a pagina 15 ci racconta meglio tutta questa lezione molto speciale di Angela Merkel. C'è proprio la foto di Angela con una delle sue solite giacche molto semplici davanti ai ragazzi, dietro di lei la lavagna con scritto appunto Angela Merkel, scritto da lei. Passiamo alla prima pagina del giornale. Più che titolare sull'intervento di Napolitano, che è però riportato nel sommario dell'articolo, si torna sulla questione del giudice Esposito. Giudice spiega questi soldi. Altro che consulenza gratuita, sul suo conto un bonifico da 974 euro per il lavoro nella scuola privata. Il famoso ISPI, per il quale il giornale ha scoperto il giudice lavorava, non sarebbero possibili questi doppi incarichi o sarebbero quantomeno poco opportuni. Il giudice aveva risposto: ho lavorato gratuitamente. Ora il giornale ha scovato il documento che mostra che così gratuito questo lavoro non era. Ma c'è poi un intervento del direttore del giornale Alessandro Sallusti sul ruolo che prende spunto naturalmente dalla nota del Quirinale, ma torna anche sul ruolo della magistratura. Il titolo è Lavorano al golpe nascosti dalla toga. Vi leggo le prime righe. La sola possibilità che Silvio Berlusconi venga graziato scatena i forcaioli d'Italia e di mezzo mondo. È la dannazione che vive questo paese in cui la giustizia è stata usata per troppi anni come arma di lotta politica. Dalla prima pagina di Libero, l'altro quotidiano che possiamo tranquillamente definire di centrodestra, anche se il PDL non ha un organo di partito, però sicuramente il giornale Libero sono quelli più vicini alle posizioni del PDL e di Berlusconi. Il titolo è a tutta pagina Mezza Grazia. La nota di Napolitano, due punti, le sentenze si rispettano, ma la giustizia è da riformare, Berlusconi non andrà in carcere se mi chiede clemenza, puntini puntini. Il destino del Cavaliere, poi c'è una caricatura di Marina Berlusconi, perché la notizia di ieri, sapete, una delle notizie di ieri è anche la nota di Marina Berlusconi in cui ha detto: io smentisco categoricamente di voler scendere in politica. Marina Berlusconi è presidente di Fininvest e di Mondadori, e su questo tema c'è un intervento di Maria Giovanna Maglia richiamato in prima pagina che poi continua a pagina 5. Un peccato, ma chissà che domani. Peccato, davvero un peccato, gentile Marina Berlusconi. Berlusconi che lei, sia pur in pieno diritto, abbia ritenuto di escludere un suo coinvolgimento in politica. L'editoriale però sulla questione della nota di Napolitano è di Fausto Carioti. Il segnale che Silvio Berlusconi e il paese attendevano da Giorgio Napolitano è arrivato ieri sera. Il capo dello Stato, pur senza sbilanciarsi con le elargizioni e le promesse, ha indicato al Cavaliere la strada per ottenere la grazia. E ci sono anche qui molte pagine dedicate alla vicenda. La prima pagina del Foglio, del Fatto Quotidiano: ti do la grazia se fai il bravo. Napolitano comunica che Berlusconi potrà avere clemenza a patto che il governo Letta viaggi sicuro, che non si parli più di elezioni anticipate, che il delinquente rispetti la sentenza. Poi tra le righe la vera condizione, il passo indietro dalla politica. La rabbia del Cavaliere, ma nel PDL volano le colombe. È comunque uno spiraglio. E su questo tema vi segnalo tra l'altro un altro articolo di Marco Lillo, perché archiviato un po' questo processo su Mediaset, sulla frode fiscale che la Cassazione ha sancito, c'è stata di Mediaset, in realtà ce ne sono altri di processi aperti, in particolare Ruby e Unipol. Infatti Marco Lillo intitola il suo articolo: ma dagli altri processi chi lo salva? Già condannato a 7 anni per prostituzione minorile, a 1 per i nastri di Fassino, ricorderete la famosa vicenda Unipol, i verdetti definitivi non sono non lontani. E non ci sarà sempre il salvagente del Quirinale. E poi il solito articolo molto ironico e molto critico con la nota del Quirinale di Marco Travaglio: Quirinal parto. L'Unità, Berlusconi il colpo di grazia, ancora un'interpretazione leggermente diversa, Libero mezza grazia, qui il colpo di grazia, e l'editoriale di Carlo Galli, la destra oltre il Cavaliere. Invece il Manifesto titola: troppa grazia, la nota del Quirinale lascia aperta la porta della grazia per Berlusconi, un lungo testo per ribadire che il governo delle larghe intese non si tocca, che il capo del centrodestra non andrà in carcere e che se la chiederanno la domanda di clemenza verrà esaminata. Il PDL vede spazi significativi, il PD apprezza. Anche qui 2 pagine di approfondimenti. E vi segnalo però dalla prima pagina un ritorno sulla questione palestinese, se ne occupano anche altri giornali, anche lì zona calda, caldissima, ce ne occupiamo tutti un po' a intermittenza. Obama ascolta tutti tranne i palestinesi, è il titolo dell'articolo di Tommaso Di Francesco. Prima pagina che vi segnalo, quella del Foglio, insolitamente lungo articolo di Giuliano Ferrara, che riconosciamo perché è firmato con un elefantino rosso: vera storia di 2 presidenti, Napolitano e Berlusconi, tra strette di mano, diffidenze, affinità sul piano del realismo. In molti lavorano per lo splash, ma il Cavaliere può leggere le parole di oggi come un segno di pacificazione possibile. Vi segnalo poi il PS: Marina, we don't take no for an answer, quindi Ferrara ci spera ancora in Marina Berlusconi. Rispondo solo velocemente a un ascoltatore che mi dice: ma come, non va bene se hanno arrestato un'intera famiglia, parlando dei Ligresti? No, io lo dicevo proprio perché lo trovo eclatante, non perché sia arrestato un'intera famiglia e questo non vada bene, ma proprio perché è una cosa senza precedenti, perché un'intera famiglia di imprenditori venga arrestata. Le accuse sono gravissime ed è per questo che io insisto molto nel seguire gli aggiornamenti che ne danno i giornali tutti i giorni, perché è appunto una vicenda che ha dell'incredibile. Ma dell'incredibile nel senso appunto negativo, non che, ripeto, perché voglio essere chiarissima su questo punto, la trovo una cosa che in nessun altro paese è mai successo, perché le accuse sono appunto gravissime e quindi la misura gravissima di arrestare tutti e 3 i figli, se fosse stato possibile, uno è latitante e il padre, perché è molto anziano, agli arresti domiciliari. Ma a proposito di notizie strane, veramente che fanno molto riflettere, in questo caso sulla crisi generale dell'Eurozona, di cui parlavamo anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore, c'è un articolo dalle pagine interne del Corriere della Sera del corrispondente Andrea Nicastro da Madrid. Uno degli effetti della crisi: in 10.000 si presentano al casting per il film di Ridley Scott, dove la richiesta era quella di comparse denutrite. Gli spagnoli si mettono in fila perché la malnutrizione in Spagna, che è uno dei paesi dell'Eurozona che soffre di più gli effetti della crisi, è un problema di massa che colpisce soprattutto i bambini. Sempre per tornare sul tema della sanità che abbiamo toccato ieri, perché Libero sta facendo un'inchiesta molto interessante sulla sanità, dalle pagine interne dedicate a Milano del Corriere della Sera: ospedali d'agosto, chiuso un posto letto su 3. Questo è un effetto che il Corriere definisce l'effetto spending review. Personale obbligato a smaltire le ferie, succede in moltissime aziende, lo sappiamo, e in questo l'effetto è appunto che l'assistenza è stata ridotta nonostante l'aumento dei milanesi che restano in città. Secondo l'ASL non c'è stato ancora alcun disagio, ma in realtà sicuramente un assalto al pronto soccorso. Dalla questione delle ferie, un po' mi collego invece a un breve editoriale che c'è a pagina 33 del Corriere della Sera, perché anche in Germania, nell'efficientissima Germania, locomotiva dell'Europa, che ieri ha avuto questi segnali di crescita più forti della media europea, che quindi ci fa sperare che torni a essere un'autentica locomotiva, ebbene, ci racconta manager Colette, quando tre ferrovieri in vacanza bloccano la grande Germania. Vi leggo le prime righe perché è molto curioso. Le ferie sono sacre in Germania, così irrinunciabili che tra luglio e agosto per 2 settimane perfino la corsa elettorale è parsa a fermarsi, con i candidati al posto di maggior potere in Europa a godersi il rito della vacanza tra Alto Adige e Mare del Nord. Nessuno quindi ha voluto e potuto richiamare in servizio 3 capistazioni di Mainz, capoluogo della ricca Renania, partiti per il programmato riposo. Piuttosto si sono fermati i treni. Il risultato è che il 40% del traffico regionale è stato cancellato. La città isolata, si sono accumulati ritardi su tutta la rete nazionale del nord. Insomma, non sempre la Germania è campione di efficienza. Tra l'altro, sulla questione dei treni, vi segnalo che alle 9 Irene Zerbini si occuperà anche del problema dei pendolari. Era sui giornali nei giorni scorsi, non sono riuscita a segnalarlo, però c'è questo problema dei treni tra Lombardia e Veneto che sono molto diminuiti, anche qui effetto della spending review, e questo crea naturalmente molti problemi ai pendolari. Ma passiamo invece, a proposito di spostamenti, c'è una pagina intera alla 21 di Repubblica dedicata ai re della Silicon Valley che si sfidano tra loro per dominare quello che Ettore Livini definisce il turismo spaziale, quindi i tycoon di Amazon, Google, Microsoft e PayPal, che hanno investito centinaia di milioni e puntano a portare il jet set su Marte o a fargli fare il giro della Luna. Gli aspiranti astronauti sono pronti a pagare fino a 150 milioni per un viaggio lunare e potrebbero essere già almeno 4.000. Ieri abbiamo accennato brevemente al sovraffollamento delle carceri e a come lo scriveva il Foglio e a come anche in America si stia cercando di affrontare la questione. Oggi la rubrica di Federico, una breve intervento di Federico Rampini a pagina 23 della Repubblica si intitola "L'America è stanca delle carceri". Sono due decisioni scollegate tra loro, ma la coincidenza è importante. Per la prima volta da decenni l'America prende le distanze da una politica repressiva che ha sbattuto dietro le sbarre una quota spropositata delle sue minoranze etniche. Da una parte c'è la decisione di un giudice federale a New York che ha dichiarato illegittima la strategia di perquisizioni che selezionano sistematicamente gli afroamericani e gli ispanici. D'altro lato il ministro della giustizia Eric Holder ha annunciato che i procuratori federali non chiederanno le massime pene carcerarie per reati legati al possesso di stupefacenti, purché non siano violenti, non coinvolgano minorenni né l'appartenenza a gang. Una generazione fa gli Stati Uniti adottarono una serie di inasprimenti al loro codice penale, col risultato di far aumentare dell'800% il numero dei prigionieri. Come ha rilevato Holder, è assurdo che gli Stati Uniti abbiano il 5% della popolazione mondiale, ma il 25% della popolazione carceraria del pianeta. Tanto più che queste politiche hanno un segno razziale evidente. Un giovane afroamericano ha 6 volte più probabilità di finire in carcere di un bianco. Perfino i repubblicani, negli stati da loro governati, hanno cominciato a ridurre la popolazione carceraria. Mantenerla costa troppo al contribuente. Vi segnalo invece dalla Stampa, pagina 14, un'intervista di Federico Semprini a Romano Prodi che approfondisce il caso del Mali. Il Mali è un paese dell'Africa dell'Ovest, del centro-ovest potremmo dire, confina con la Mauritania, con il Burkina Faso e con il Niger. Secondo Prodi è un modello di ricostruzione rivoluzionario che potrebbe funzionare anche per altri paesi, quello che si sta appunto attuando in Mali, quindi una buona notizia. Meno buona la notizia da Israele, perché sì, è vero che da una parte si sta cercando di far ripartire il dialogo con i palestinesi, ed è vero che i razzi e la questione dei coloni con i 1200 nuovi alloggi annunciati dal governo potrebbero fermare i colloqui di pace, ma in realtà oggi ci sarà un primo round di questi colloqui, anche se Hamas punta al boicottaggio delle case e i jihadisti sono comunque sul piede di guerra, però in qualche modo si tenta di far ripartire il dialogo. Dalla prima pagina della Padania vi segnalo un intervento di Stefano Bruno Galli, di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi perché aveva concesso un'intervista al Corriere della Sera. È uno studioso che sta cercando di mettere a punto insieme a Maroni, presidente della Lombardia, un modello di federalismo. Scrive Stefano Bruno Galli sulla prima pagina della Padania, poi l'articolo prosegue a pagina 4. Il federalismo o è competitivo o non è. A Gianfranco Miglio quello tedesco non piaceva molto, tant'è che lo definiva un falso federalismo. Aveva ragione, perché si tratta di un federalismo basato sui rapporti di solidarietà e di cooperazione tra i vari länder. E l'approfondimento continua poi appunto a pagina 14. Per uscire dalla crisi, la via è quella tedesca, decentramento e macro aree omogenee. A proposito di trasporti strani, vi segnalo dalla prima pagina del Secolo XIX, il quotidiano di Genova, che in realtà è una notizia che trovate anche su altri giornali, nessuno però l'ha messa in prima pagina. Passeggeri sparati a 1200 km orari per 20 dollari. L'idea, confessa, gli è venuta di notte grazie a una visita onirica del suo autore ed ispiratore preferito, Isaac Asimov, che gli ha gettato il guanto di una temeraria fantascientifica sfida: viaggiare su terra alla velocità del suono quasi, riducendo drasticamente i tempi di percorrenza e aprendo le porte del futuro al trasporto passeggeri ancora fermo alle costose tartarughe del XX secolo. Parliamo di Elon Musk, un 42 anni, vulcanico imprenditore della Silicon Valley di origine sudafricana, che ha deciso appunto di tradurre il suo sogno in realtà, perché quello che spera è di arrivare a far ricoprire in treno la distanza di 614 km che separa San Francisco da Los Angeles in 30 minuti a 1200 km all'ora. E sì, e secondo l'imprenditore riuscirà a farlo per soli 20 dollari, facendo pagare solo 20 dollari ai passeggeri. Vedremo. Dall'Avvenire vi segnalo l'ottava puntata dell'inchiesta del giornale dedicata alle madri in affitto. Oggi il focus è sul Guatemala, un paese in cui fino al 2007 venivano adottati dagli Stati Uniti quasi 5.000 bambini l'anno. Poi c'è stato un crollo. Il titolo della puntata di oggi è "Se l'utero in affitto spegne l'adozione internazionale". Dicevamo, l'inchiesta sulla sanità di Libero continua anche oggi, pagine 13 e 14. Oggi c'è un focus sugli ospedali della Lombardia, dove in Lombardia ci sarebbe, a Milano in particolare, ci sono le eccellenze della cardiologia. Ma vediamo anche altri approfondimenti. Sul Foglio vi segnalo un articolo sul mercato del lavoro in Cina, che chiamiamo ancora la fabbrica del mondo, e c'è una marcia lenta che il Foglio ci descrive verso standard simil occidentali. E a questo proposito, visto che appunto in Cina il costo del lavoro sta aumentando, l'Avvenire spiega che ci sono nuove fabbriche del mondo, 16 paesi pronti a conquistare le produzioni low cost. Questi 16 paesi vanno dal Bangladesh al Vietnam, e dove appunto questi standard occidentali sono ancora lontani da venire. Dalle pagine interne dell'Avvenire vi segnalo a proposito di ripresa economia. Il mercato dell'arte non vede la ripresa. La più importante manifestazione del settore, che si svolge ogni anno a Basilea, è giunta alla 44esima edizione e ha confermato che la fase recessiva non è finita. Sull'arte, per fare un collegamento, vi segnalo invece un ritratto che fa Libero di Mayassa Altani, che viene definita la Cariffa dell'arte, la sorella dell'Emiro del Qatar, giovane, colta e bella, è la donna più potente del mondo del collezionismo. Con il manifesto invece oggi trovate Le Monde Diplomatique, con tantissimi approfondimenti sulle questioni internazionali. Il più interessante è quello sull'Egitto. Il titolo è "In Egitto la rivoluzione", cerca appunto di spiegarci Le Monde Diplomatique, qualcosa che vada oltre la cronaca e su questa vicenda così difficile da capire per noi occidentali, così lontani dall'Egitto, tutto sommato, da quello che sta succedendo lì. Sul Fatto Quotidiano prosegue, a proposito di inchieste che proseguono, quella sulle mega navi da crociera che entrano fino a due passi da Piazza San Marco. Sempre Gian Piero Gramaglia che se ne occupa, oggi riporta l'intervento del commissario ai trasporti dell'Unione Europea che ha chiesto chiarimenti a Venezia. Venezia a rischio, l'Europa indaga sulle navi mostro. E c'è anche oggi una di queste foto inquietanti di queste enormi navi da crociera, la foto di oggi di questa nave che si avvicina pericolosamente a Riva degli Schiavoni, sempre vicinissimo a Piazza San Marco. Il Foglio si occupa anche di Federica Pellegrini, della sua polemica sui pochi soldi che avrebbe ricevuto, solo 3.000 euro per tre ore. In realtà la federazione ha smentito, ne avrebbe ricevuti circa 70.000. Purtroppo il tempo è finito anche oggi, c'erano altre segnalazioni. Ultimissima cosa, c'è Panorama oggi in edicola, la copertina, come capire se ti stai veramente riposando in vacanza. Ci sentiamo domani, giorno di Ferragosto, una buonissima giornata a tutti da Giulia Crivelli.